Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Io quest'anno non voglio avere più niente a che fare con quella roba tremenda che sono gli Ig Nobel e gli ignobili Nobel, quindi lascio tutto in mano, li sentirete subito ad Alberto e Chiara, e fra l'altro però questa è una delle robe più divertenti che ci sono in circolazione. Ci sentiamo dopo. Giunti alla 22esima edizione, anche quest'anno, poco prima dei Nobel veri, arrivano gli Ig Nobel, i premi seri alle ricerche che fanno ridere. Il ghiaccio non è tutto uguale? Esiste un ghiaccio che si scioglie prima di un altro? Il quesito glaciale del nostro ascoltatore Pietro. Collegamento con i cavernauti. Li hanno soprannominati così e sono gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea rinchiusi in una grotta sarda alla ricerca di forme di vita. La moda è un grande marchio italiano, quindi se può essere sostenibile, dobbiamo farlo noi. È quello che si propone una iniziativa che parte dal corso di laurea in disegno industriale del Politecnico di Milano. Please prepare your paper airplanes. 3, 2, 1, commence paper airplane throw. Alberto, finalmente anche quest'anno sono arrivati. Sono arrivati, sì. Hai sentito? Questo era l'audio dell'inizio della celebrazione. Ora vi spieghiamo, ci sono aeroplanini di carta e quant'altro. Ed è uno degli eventi più attesi per il pubblico scientifico. Sì. È la 22esima edizione dei premi Ig Nobel. Ecco, che si è tenuta 2 giorni fa, quindi siamo sul pezzo, e sono state premiate seriamente, perché vengono premiate dai Nobel veri, le ricerche improbabili, le chiamano ricerche improbabili, io mi identifico molto con questo aggettivo. Ecco, che prima fanno ridere e poi però fanno riflettere. Fanno pensare, sì. Allora, come sempre si è svolta a Boston e quasi come ogni anno cade circa 10 giorni prima dell'assegnazione dei Nobel veri. Sì, ed è proprio un vero e proprio evento mondano per i cittadini di Boston, ma anche per chi l'ha voluta seguire sul web, insomma poi sul nostro sito mettiamo anche un link. Sì, perché è un vero e proprio show, ci sono vari comici, dei veri premi Nobel, insomma è proprio una serata quasi come l'assegnazione degli Oscar, mi viene. C'è una mini opera che viene cantata dal vivo e c'è questa apertura che viene fatta con il lancio degli aeroplanini di carta. Appunto, perché il successo di una ricerca viene proprio sancito dal lancio forsennato di questi aeroplanini di carta sul palco. Cioè, più uno riceve aeroplanini di carta, più la ricerca ha successo. Allora, spieghiamo un po' poi come si svolge la premiazione. Sì, c'è un vero e proprio rituale. Ogni premiato ha a disposizione 1 minuto per raccontare la propria ricerca. E anni fa, per risolvere il problema di sì, quelli che andavano un po' lunghi, che perché magari si sa che i ricercatori si dilungano nelle loro presentazioni, amano parlare delle proprie cose. Che insomma, cosa succede? Mark Abrams, che è l'organizzatore degli Ig Nobel e quindi anche il presentatore, è una persona molto molto simpatica, presenta al pubblico la dolce Miss Sweetie Pooh. Miss Sweetie Pooh is 8 years old. Ecco qui Alberto, lo senti? Abrams dice: vi presento la dolce Sweetie Pooh. Ha 8 anni e quando lo speaker si dilunga, Vista, I'm bored. La piccola comincia a dire a ripetizione e serissima: per favore, basta, sono annoiata. Please, per favore, stop. Basta, sono I'm annoiata. Bored. Thank you, Miss Sweetie Pooh. Thank you, Miss Sweetie. Thank you, Miss Sweetie Pooh. Thank you, Miss Sweetie Pooh. Thank you, Miss. Thank Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss Sweetie Pooh. Bene, ma ora non ci dilunghiamo, è arrivato il momento di presentare le categorie e i premi di quest'anno. Rullo di tamburi. Aggiudica il premio Ig Nobel per la psicologia un gruppo internazionale di ricercatori dall'Olanda alla Russia passando per il Perù per aver scoperto che se si guarda la Tour Eiffel inclinandosi a sinistra sembra più piccola. Però non specificano da dove bisogna guardarla. Vabbè, questo poi ti andrai a leggere il paper. Comunque, un piccolo gossip tra l'altro di contorno: 2 di questi scienziati dello studio si sposano oggi. Auguri! Thank you. fenomeno. Ecco, il premio invece prestigiosissimo per la pace è stato assegnato a una compagnia russa, SKN si chiama, per aver trovato un modo di convertire vecchie munizioni in diamanti. Questo non è male, non è male. Invece il premio per l'acustica, ecco, questo è un premio nuovo perché i premi si rinnovano di anno in anno, va a due giapponesi per aver creato lo speech jammer. Che cos'è? Un bizzarro strumento che disturba il discorso di una persona riproducendo le stesse parole con un ritardo di 200 millisecondi. Molto utile quando avete degli interlocutori noiosi. Un team americano si aggiudica invece l'Ig Nobel per le neuroscienze. Hanno dimostrato che i ricercatori, usando complicati strumenti e semplici statistiche, riescono a riscontrare un'attività cerebrale praticamente ovunque, persino in un salmone morto. Benissimo. Allora, insigniti dell'Ig Nobel per la chimica. Scusa, insigniti. Insigniti per l'Ig Nobel per la chimica, uno svedese e un ruandese, per aver spiegato come mai in certe case di Anderslov, che è una cittadina svedese, i capelli delle persone diventano verdi. Sarebbe a causa della presenza di rame nell'acqua calda, ma pensate, solo di notte. E Johan Peterson, se si pronuncia così, il ricercatore che ha vinto il premio, si è presentato alla cerimonia con la barba dipinta di verde. L'Ig Nobel per la letteratura viene invece assegnato a un ufficio governativo statunitense che ha pubblicato un report sui report sui report che raccomandano la preparazione di un report su come si preparano i report sui report sui report. Report. Ancora americani, quelli che hanno ritirato il premio Ig Nobel per la fisica, hanno presentato una ricerca sulle forze che danno forma ai capelli raccolti a coda di cavallo, e su questo siamo orgogliosi di ricordarvi che a suo tempo, quando fu pubblicato lo studio, anche Mebius ne parlò, perché noi abbiamo fiuto per le ricerche importanti. E ora con la tazzina del caffè fluidodinamica. Fluidodinamica e il caffè c'entra, perché il premio Ig Nobel per la fluidodinamica va ai ricercatori che hanno studiato la dinamica dello sciabordio dei liquidi per capire cosa succede quando una persona cammina con una tazza di caffè bollente in mano. Ecco, sì, in effetti. E soprattutto quando si ribalta addosso. Allora, l'Ig Nobel per l'anatomia invece lo vincono un olandese e un americano per aver scoperto, senti qua, che gli scimpanzé possono identificare altri scimpanzé attraverso immagini del loro lato B. Ma mica solo loro, però, mi sembra. Infatti, questa è un po' la conferma del fatto che siamo imparentati. Vabbè. Beh, a proposito di lato B, chiudiamo, last but not least, l'importantissimo Ig Nobel per la medicina va a scienziati francesi che hanno spiegato ai medici come rendere minima la probabilità che un paziente esploda durante una colonscopia. Benissimo, chiudiamo in bellezza, ma trovate il video dell'intera cerimonia sul nostro sito www.moebiusonline.eu. www.moebiusonline.eu, non .it per esempio, ma neanche www.moebius.it, cioè proprio moebiusonline.eu. I'm bored. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ma perché dobbiamo rispondere soltanto a una domanda che ci arriva dagli ascoltatori per puntata? Qui ce ne stanno arrivando un sacco. È vero, poi infatti, c'è anche polemica, sì, c'è sì, anche ci bagarre. Chiedono anche delle precisazioni, delle rettifiche, degli approfondimenti. Per esempio della domanda della volta scorsa. Per esempio. E adesso ci arriviamo. Però adesso mi rivolgo ad Alberto, perché lei è l'esperta questa volta. Lei è Chiara, sì, sì, sì. Ebbene sì. Bene sì. Ci scrive chi? Ci scrive Giulia da Padova e ci chiede perché i cani non hanno l'ombelico e come quindi venivano nutriti nel ventre materno, ma sarà poi vero? Allora, Chiara, cara Giulia, Chiara, certo io però, che ce l'hanno l'ombelico. Però io sono andato in un giardinetto sabato e domenica, ci sono Hai mamma guardato. E papà, ho rivoltato un po' di cagnotti, non si vede. I proprietari erano d'accordo? Sì, no, c'è stato un certo scopo. Erano barboncini, cane a pelo lungo? No, certo, ho scelto il bassotto che dovrebbe far vedere tutto. No, in realtà secondo me in alcuni cani se guardi bene si vede. E ovviamente tutto dipende da come si cicatrizza al momento della nascita, quando viene rimosso dalla mamma. Ma in realtà i cani ce l'hanno, è come l'ombelico, come i gattini, i mici e tutti gli altri animali, insomma i mammiferi placentati. Però non si vede, scusate, questo è un problema adesso per i cultori della materia, è un problema epistemologico fortissimo. Allora, cioè, non, si vede semplicemente perché o è coperto dal pelo o comunque ha una buona cicatrizzazione e quindi è rimasta una cicatrice, c'è di sicuro, ma è praticamente invisibile. Quindi ha una cicatrizzazione diversa da quella nostra. Sì. Potremmo fare un sondaggio tra i nostri ascoltatori e chiedere quelli di loro che hanno cani o gatti, insomma, che ci dicano se trovano o no l'ombelico. E ecco, ci facciano delle foto. Sì, diciamo che la posizione è la stessa per tutti, ovviamente, sì. Sulla pancia, ecco, sul basso ventre. Però forse è il caso di ricordare che quando partoriscono cagnolini, gattini così, non vanno dall'ostetrica, ecco. E quindi come viene rimosso? Semplicemente la mamma lo morde. Ecco, sì, non dobbiamo pensare come una cosa dolorosa, perché alla fine è quello che avviene anche nelle nostre sale parto. E quindi, insomma, tutto è qua, risolta. Giulia, ce l'hanno, e come? E la Sistina, dove abbiamo il creatore che si rivolge ad Adamo con il ditino. E Adamo c'ha un ombelico gigantesco. E vabbè, ognuno c'ha il suo. Quello si vede, sì. E beh, però, scusa, Adamo, la mamma di Adamo chi è? Vabbè, questo, ecco, però, manda la domanda a Mebius, troveremo un esperto. Qualcuno. Sfioriamo la teologia e altri argomenti. Potremmo trovare un esperto che sappia rispondere. Va bene, passiamo alla rettifica. Passiamo alla rettifica. Ci hanno criticato, sì. Perché? Ci hanno detto che non abbiamo approfondito troppo i canali. In realtà non era una critica, era una critica, se vogliamo, costruttiva, nel senso che certo, ci chiedevano delle puntualizzazioni. Sì, allora, noi abbiamo detto, perché un canale funzioni, bisogna che il punto di presa, quello a monte, sia più in alto di quello a valle. Canali, scusa, per l'acqua, Canali per l'acqua. Dobbiamo, sì, forse ricordare la domanda, per chi non ci avesse ascoltato la settimana scorsa, era come i romani o gli antichi costruivano i canali, cioè come creavano quella pendenza per costruire i canali artificiali. E la risposta è appunto che è sufficiente che il punto a monte sia più alto di quello a valle. Uno dice è ovvio, è scontato, è semplice, ma è proprio in questa semplicità che c'è la bellezza della costruzione, perché in realtà la pendenza che serve è minima. Per verificare però che questa pendenza in tutto il tratto ci sia, arriva il bello, anche se insomma un po' magari approssimativa, non sempre si usavano degli strumenti che erano delle specie di livelle. Professor Guercio ci parlava di uno squadro, insomma si capiva in tratti di qualche decina di metri di quanto il terreno a monte e a valle fosse più in alto, più in basso. Sì, quindi c'era uno strumento adoperabile. Si andava avanti sapendo già in partenza appunto che più o meno, anche a occhio, anche per le conoscenze del terreno che comunque si avevano, sapendo in precedenza appunto che c'era un punto di presa che era leggermente più alto, presumibilmente si andava avanti cercando la strada migliore per... Un po' a naso, ma con un grande artigianato. Sì, e con questi strumenti un po' approssimativi, ma anche perché, come dicevamo, non è il caso che sia così preciso questo fondo, che questa pendenza sia così regolare e che anche il fondo sia liscio, perché... Basta che ci sia una certa costanza, diciamo, di pendenza. E forse però, scusa Alberto, c'è anche un altro fattore. Cioè, se sulla pendenza di un canale di questo genere mettiamo, che ne so, una boccia da biliardo, siccome ci diceva il nostro esperto, bisogna che sia un metro su 10 chilometri. È sufficiente. Allora, nessuna boccia rotola giù perché c'è una pendenza di questo genere, no? Però la differenza è che invece noi abbiamo l'acqua che è distribuita ovunque, no? Quindi è una massa che effettivamente si spinge in continuazione una con l'altra. E questa è l'enorme differenza. Il pelo dell'acqua è comunque al di sopra e quello sì che è in pendenza. Quello sì che è in pendenza. E comunque i nostri ascoltatori proprio quello che ci chiedevano erano quali erano gli strumenti. Allora, certo, il professor Guercio ci ha detto lo squadro e il filo a piombo. E il filo a piombo, strumenti simili, insomma, comunque antichissimi. Col filo a piombo sì, si verificava la verticalità e poi con una specie di bolla paragonabile, praticamente a una bolla, bacinella con dell'acqua, insomma. Vabbè, si capiva di quanto la era inclinata. Vi abbiamo risposto, probabilmente non arriveranno più domande perché saranno tutti lì a rivoltare cani per vedere se c'è questa cosa dell'ombelico. Mandateci delle foto. A noi una nuova è arrivata, insomma, una nuova domanda. La domanda con l'esperto vero, adesso gli esperti di Mebius si zittiscono e diamo la parola invece al nostro Pietro. Forse vale la pena ricordare nuovamente i contatti attraverso i quali ascoltatori possono raggiungerci. Allora, la mail mebius@radio24.it, Facebook Moebius Scienza, e poi c'è anche Twitter Moebius_ cioè il trattino basso online. E ora veniamo a Pietro. Potreste spiegarmi perché il ghiaccio staccato dalle pareti del freezer durante lo sbrinamento si scioglie molto, ma molto più lentamente di qualsiasi ghiaccio normale? Allora, chi risponde a questa domanda glaciale? Professor Smiraglia, buonasera. Salve a voi, buonasera. Claudio Smiraglia, glaciologo. Noi Smiraglia di solito la sentiamo per sapere se i ghiacciai dell'Annapurna o del K2 si ritirano. Qui avremo un problema con il freezer. Le va di darci una mano? Sì, sicuramente. Un problema domestico. Un problema un po' più domestico, insomma. È il concetto di ghiaccio normale che va un pochino approfondito. Ecco, perché, forse sì. Noi abbiamo nel freezer la possibilità di avere due tipi di ghiaccio principali. Il primo è quello appunto a cui ci si riferiva, che è quello che si forma sulle pareti, ed è un ghiaccio che deriva dalla sublimazione, cioè in pratica l'aria che c'è dentro il freezer passa rapidamente allo stato solido e si incolla alle pareti. Mm-hmm. Questo non è un tipo di ghiaccio. Che... Quindi un ghiaccio solidifica. Compatto, ad esempio? Sì, non compattissimo, è a lamelle soprattutto, a meno che il freezer venga aperto molto spesso, come purtroppo capita anche a me qualche volta, e quindi oltre a questo ghiaccio, che è un po' come la brina, che si forma d'inverno sul cruscotto dell'auto, c'è un altro ghiaccio che deriva invece dal, come dire, al congelamento dell'acqua che può essere presente nel frigo stesso. Dell'acqua di condensa. Di ghiaccio praticamente. Mm-hmm. Quindi abbiamo almeno due tipi di ghiaccio che hanno una struttura cristallina piuttosto diversa. Ah. Una è un po' più compatta, complessa, l'altra è meno compatta e quindi reagiscono in modo diverso rispetto poi a quando la temperatura tende a salire. Ma mi verrebbe da dire, se ho ancora certo, di spazio, che è un fenomeno che poi ritroviamo in natura, per tornare nel mio campo specifico, nella differenza per esempio tra il ghiaccio di mare, il ghiaccio di fiume, il ghiaccio di lago, il ghiaccio di ghiacciaio o la neve. Ah, perché è tutta acqua allo stato solido, ma hanno strutture cristalline molto molto diverse e quindi reagiscono in modo diverso rispetto al riscaldamento. Quindi con tempi di scioglimento che possono con essere diversi. Con tempi di fusione, meglio dire fusione che diffusione, non diffusione, è cioè, una cosa, molto scrive. Diversi. Non solo, ma un esperimento che si può suggerire, se capitasse di essere in un ambiente freddo, avere del ghiaccio di lago a disposizione, e contemporaneamente un pezzettino di ghiaccio di ghiacciaio vero e proprio, se li facciamo scaldare vediamo che fondono con tempi diversi, fonde più rapidamente quello di lago, e in modo diverso, perché l'acqua di lago ha una struttura cristallina con grossi cristalli verticali, aciculari. Il ghiaccio di ghiacciaio ha dei grossi cristalli invece tondeggianti. Ma questo dipende dalla concentrazione dell'acqua o anche dallo stato in cui si trovava l'acqua nel momento in cui si è ghiacciata? No, dipende dalla materia di partenza, che in un caso è il ghiaccio di lago e l'altro caso è il ghiaccio di ghiacciaio. L'acqua quando gela assume una sua veste cristallina particolare, il ghiaccio invece di ghiacciaio non deriva dal congelamento dell'acqua ma dalle trasformazioni dei fiocchi di neve che si compattano. Quindi la struttura, il reticolo cristallino, quindi la compattezza dei legami che tengono insieme queste molecole, cioè queste piccole parti di materia, è molto molto diversa. E da lì anche il colore, forse? Colore normalmente dipende dalla quantità di aria che vi è all'interno. Che contiene. Il ghiaccio di freezer ai nostri climi è abbastanza diffuso, insomma. Sì. Sì, lei ha notizie che si sta ritirando pure quello, no? No. No, per il momento dipende poi dalla quantità di energia elettrica che avremo a disposizione nei prossimi decenni esatto. Per fare ghiaccio di freezer. E lì si no. Ritira senz'altro. Certamente. Va bene, grazie, grazie professore. Prego, grazie, professor Morandi. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sembra strano, ma per fare l'astronauta bisogna infilarsi in caverne cunicoli. Voi direte come mai? E infatti adesso ve lo spiega Chiara Albicocco. Cavernauti li hanno soprannominati e sono gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea che in questi giorni sono in Sardegna per esplorare chilometri di cunicoli e di grotte sotterranee. Ora ci colleghiamo con loro e per la precisione con Loredana Bessone che è l'istruttrice dell'Agenzia Spaziale Europea che li sta accompagnando. Buonasera Bessone. Buonasera a lei. Ecco, noi vi disturbiamo perché in questo momento siete nella fase finale dell'esplorazione. È stato anche complicato mettersi in contatto con voi perché veramente eravate nel sottosuolo. Ecco, volevo chiederle intanto di raccontarci un pochino come si è svolta questa esercitazione e poi ovviamente che valore ha per gli astronauti. Certo. Certo, beh, abbiamo cominciato una settimana fa, anzi due settimane fa, ho perso la nozione del tempo. È volato. Sì, il tempo è volato, preparandoli sia scientificamente che tecnicamente alla missione, come succede nei voli spaziali. È molto normale per loro essere prima preparati scientificamente e tecnicamente. È una preparazione tecnica anche complessa, perché nessuno di loro aveva esperienza di grotta precedentemente, dovevamo essere sicuri di portarli in grotta in piena sicurezza. Certo. Quindi questa è stata la prima fase dell'addestramento, la fase preparativa. Dopodiché, sei giorni fa siamo entrati in grotta, si sono familiarizzati con la grotta all'inizio. Si sono portati nella zona del campo, che è una traversata abbastanza complessa, che è durata 5 ore. E più o meno in che zona siamo della Sardegna, così magari qualcuno conosce la zona? Certo, siamo nel Supramonte Sardo e più specificamente nella Valle di Lanaitto. Allora, siete piano piano entrati? Siamo entrati, sono arrivati al campo, ancora accompagnati da tutto il personale di supporto e anche dagli scienziati, che gli hanno mostrato come fare in situ sia i campionamenti che la ricerca di vita. Ecco, loro cercavano lì la vita, ecco, è questa la cosa interessante. Molto interessante. Lo scopo, diciamo, di questa esercitazione è proprio il fatto che gli astronauti vivessero dentro un campo, comunque sottoterra, per più o meno quanto tempo? Un paio di settimane, diceva? No, hanno fatto un'esercitazione? No, loro sono stati 6 giorni in grotta, la permanenza in grotta, la missione è stata di 6 giorni. Quindi senza vedere la luce del sole e cercavano vita. Cercavano vita, non solo, loro esploravano nuove zone, dovevano allo stesso tempo rilevare tutte le zone esplorate, riportare indietro una documentazione fotografica delle zone rilevate e nel frattempo fare scienza. Fare scienza significava sia misurare parametri standard della grotta, tipo temperatura, vento, rilievi di acqua, campionamenti anche di acqua e controllo della qualità dell'acqua, prima di tutto anche per essere sicuri che i parametri fossero dei parametri che non creassero dei problemi per loro, ma anche per riportare indietro agli scienziati la geologia e la meteorologia della grotta. Certo. Dopodiché cercavano vita, effettivamente facevano due tipi di ricerche di vita. Una era la ricerca di animaletti dopo aver piazzato delle esche, e questa comunque è un'attività che in Sardegna viene fatta da anni, anzi dal 1870, in modo molto sistematico. Invece una nuova ricerca che non è ancora stata fatta in queste zone è la ricerca di microbiologia, cioè di vita, di estremofili in un certo senso, di microrganismi che vivono in grotta. Questa è una novità effettivamente per la Sardegna, però questi sono tutti degli elementi di scienza che loro fanno, ma l'obiettivo finale del corso era formare il gruppo a lavorare come un gruppo multiculturale in ambiente ostile. Certo. Per prepararli a voli di lunga durata. Ecco, questo perché? Perché un pochino il clima e la situazione può essere simile a quella che troveranno nello spazio, e così anche diciamo il fiuto, l'esplorazione, la ricerca di nuova vita è un pochino la stessa sensazione che potrebbero provare nello spazio? Assolutamente sì, e avendo quest'anno 3 astronauti con esperienza di volo sia sullo shuttle che sulla stazione spaziale, hanno molto spesso riportato agli astronauti nuovi, quelli che ancora non hanno esperienza di volo, quante analogie hanno trovato sia sul movimento in grotta con attrezzi, che è molto simile alla progressione che loro devono fare durante le passeggiate spaziali, sia per il modo in cui tutta l'attività è stata organizzata, anche la parte scientifica, che è un programma reale, interessante, e loro anche sulla stazione spaziale hanno dei programmi scientifici in cui devono portare avanti una scienza che loro non conoscono. Certo. Perché non sono degli scienziati. E questa analogia loro l'hanno riscontrata, in effetti. Assolutamente sì, hanno riscontrato questa analogia, e anche l'adattamento a un ambiente molto estraneo, perché quando volano l'ambiente spaziale, la prima volta è un ambiente estraneo, e la grotta è un ambiente molto estraneo, devono adattarci, e questo occupa tempo e risorse sia fisiche che mentali. Come se la sono cavata? Sono stati bravi o comunque le difficoltà in grotta ci sono state? Sono stati bravissimi, ovvio Le difficoltà ci sono per tutti, ci sono per me, ci sono anche per gli speleologi che sono esperti. La grotta non è un ambiente facile, bisogna essere costantemente attenti alla sicurezza, in nessun momento ci si può distrarre, sia per l'orientamento che per non cadere, per non ritrovarsi in situazioni difficili, però sono stati molto molto bravi, hanno lavorato benissimo come gruppo. C'erano i nostri italiani, la Cristoforetti? Quest'anno non c'erano italiani, quest'anno il gruppo era composto di due astronauti della NASA, un astronauta canadese, un giapponese, un astronauta ESA danese e un russo. Beh, un bel gruppo internazionale, ma ecco, gli astronauti sono, diciamo, avvezzi a questo tipo di esercitazioni? Si fanno sempre, spesso, oppure questa era un po' straordinaria? Allora, intanto gli astronauti fanno sempre delle attività di sopravvivenza. Queste attività noi ne abbiamo fatto un paio già in passato in Sardegna, in Sopramonte, nella Valle di Lanaito, nella Valle del Flumineddu, con tutti i nuovi astronauti dell'ESA, che non erano ancora al tempo astronauti, erano ancora candidati astronauti. Ah, ecco. La NASA fa delle attività di sopravvivenza, i russi fanno attività di sopravvivenza. È indispensabile, insomma, pare di capire. È indispensabile, soprattutto anche la NASA fa due attività parallele. Una è l'attività NOLF, che è un addestramento di leadership per renderli avvezzi al comando, che è una cosa molto importante per loro, e poi c'è NIMO, che è un'attività sottomarina in un ambiente di ricerca, nel quale scendono in sott'acqua e rimangono in saturazione per un paio di settimane in un ambiente molto simile anche all'ambiente spaziale. Certo. Quindi sono attività, diciamo, standard, ma questa, quella di essere in grotta, è una novità che apparentemente è molto molto piaciuta. L'esperienza deve essere molto importante, sia dal punto di vista chiaramente fisico, provante anche, però credo anche dal punto di vista umano, perché loro si trovano praticamente a contatto in un ambiente strettissimo, molto limitato, ostile per molti giorni, e soprattutto con scarsi collegamenti con l'esterno, cioè perché devono in tutto e per tutto isolarsi in un certo modo. Assolutamente sì, effettivamente quello che mi dicevano ieri è che si sono sentiti molto più isolati di quanto si sentano sulla stazione spaziale, perché non avevano collegamenti esterni se non con due comunicazioni al giorno con il gruppo, quello che noi chiamiamo il gruppo a terra, che era il gruppo esterno, con cui parlavano la mattina e la sera per informare sui piani del giorno o il rapporto della giornata, allo stesso modo in cui lo fanno sulla stazione spaziale. Certo, perché non c'erano collegamenti satellitari ovviamente sottoterra, o collegamenti telefonici o radio, insomma. Era un collegamento telefonico, abbiamo steso qualcosina. Un filo telefonico dall'entrata alla grotta fino al campo base, e in più quest'anno abbiamo fatto il test di un sistema di comunicazione che ci è stato prestato dal soccorso speleologico sardo, che è un nuovo sistema che ha funzionato benissimo. Gli astronauti l'hanno testato per la prima volta qua in Sardegna. Ah, e di che cosa si trattava? È un sistema che si chiama Tedra, è un sistema nuovo basato su longhe, onde lunghe, che consiste in un chiaramente un telefono che ha dei cavi, delle antenne molto lunghe che devono essere inserite nel terreno a contatto con la roccia o con la sabbia della grotta, e effettivamente il test è stato molto positivo, ed effettivamente è una cosa eccezionale per gli speleologi, perché di solito scendono a delle certo, per sicurezza, per comunicare. Per sicurezza, assolutamente, ha funzionato molto molto bene, siamo molto molto soddisfatti di questa cosa. Benissimo, allora anche noi siamo contenti di essere riusciti a fare il collegamento, magari poi quando elaborerete i dati, se ci contattate, ci fate sapere com'è andata, se sono stati bravi, se hanno rilevato qualcosa di veramente interessante, e facciamo in bocca al lupo a tutti gli astronauti che hanno partecipato. Grazie mille, dottoressa Bessone. Grazie a lei. Qualche tempo fa ce ne siamo già occupati qui a Mebius. Alberto, mi sto riferendo al giallo di Van Gogh. O meglio, al giallo del giallo di Van Gogh. Ecco, appunto, perché il problema è noto da tempo. Il giallo così vivace, così brillante di tanti quadri di questo celebre pittore, nel tempo perde lucentezza e, a seconda dei casi, o diventa più scuro o tende un po' all'arancione. Da qualche anno un gruppo di ricercatori di diverse università europee si sta dedicando allo studio dei pigmenti che Van Gogh usava appunto per ottenere questi quadri. Van Gogh, così come Gauguin e altri pittori dell'epoca. Van Gogh in particolare era molto entusiasta di questi pigmenti perché erano così brillanti e davano quei colori che secondo lui non dovevano essere per forza quelli reali, ma insomma dovevano esaltare il significato del quadro. Le cose però sono più complicate di quello che si potrebbe pensare, perché l'evoluzione nel tempo di questi colori dipende naturalmente dalla modalità di conservazione del quadro, ma soprattutto dal tipo di pigmento usato e anche, ahimè, dalla vernice protettiva che in certi casi è stata data sopra. L'anno scorso vi avevamo raccontato di come i ricercatori avevano capito che il giallo cromo, che è appunto un particolare pigmento usato da Van Gogh a base di cromato di piombo, nel tempo subisce una reazione di riduzione e perde lucentezza. E i ricercatori in particolare avevano studiato due quadri, che erano Le rive della Senna, dipinto nel 1887, e Vista di Arles con Iris, dipinto invece nel 1888. Ed ecco che ora arriva lo studio nuovo su un nuovo quadro, sempre di quel periodo del 1887, Fiori in un vaso blu. Si è scoperta un'altra reazione che avviene in un altro tipo di giallo, si chiama giallo cadmio, che è proprio una combinazione di solfuro di cadmio e di ossido di zinco, usato sempre da Van Gogh in quel periodo. Tra l'altro il cadmio è tossico e c'è qualcuno che ipotizza che la pazzia di Van Gogh, insomma, c'entri con questo cadmio. Questo giallo cadmio già si era osservato che, insomma, esposto all'aria normalmente si ossida e perde lucentezza, ma i restauratori del museo olandese in cui è conservato il quadro Fiori in un vaso blu hanno notato che su questo quadro il giallo invece presenta una specie di crosta grigio-arancio, insomma non si comporta come dovrebbe. E a questo punto hanno prelevato quindi dei micro frammenti del giallo di questo quadro e l'hanno fatto esaminare, dove è stato analizzato grazie alla luce di sincrotrone negli acceleratori di Grenoble in Francia e di Amburgo in Germania. La luce di sincrotrone si genera da acceleratori di particelle simili a quelli del CERN, ma in cui le particelle non vengono fatte scontrare, ma vengono convogliate in fasci luminosi, in questo caso raggi X, che attraversano il campione e, a seconda della risposta del fascio che otteniamo in risposta, si capisce di che natura è il materiale attraversato. E Alberto, e cosa è venuto fuori? È venuto fuori che il giallo cadmio usato da Van Gogh reagisce in maniera strana rispetto al consueto, perché è stata usata una vernice protettiva con la quale il cadmio appunto reagisce e produce questa specie di crosta grigio-arancio, insomma. Che provocherebbe appunto il deterioramento dei colori così vivaci. I quadri di Van Gogh, insomma, si può dire che non sono oggetti statici, ma sono dei veri e propri cocktail di elementi chimici che reagiscono tra loro. E chissà mai che Van Gogh non abbia studiato veramente queste reazioni e volesse che i suoi quadri si trasformassero nella colorazione. Quindi, insomma, il giallo continua. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sentite adesso che cosa vi racconta Chiara Albicocco. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Quella faccia un po' così è frutto della genetica. Si potrebbe rispondere così a Paolo Conte, e per la precisione è frutto di 5 geni che sarebbero responsabili dei tratti più distintivi del nostro volto. Questo è quanto afferma Manfred Kaiser, ricercatore dell'Università di Rotterdam. Il team da lui coordinato ha studiato il viso di 5.388 soggetti di origine europea, identificando i 5 geni che sembrano giocare un ruolo fondamentale nella determinazione dei tratti fenotipici distintivi, come ad esempio la forma del naso o la posizione degli occhi. Dopo aver dimostrato l'ereditarietà di questi caratteri, è stata effettuata una seconda analisi su 79 coppie di gemelli monozigoti e 90 coppie di gemelli eterozigoti, ed è stato stimato il tasso di eredità di questi singoli tratti. Così sono stati identificati i 5 geni. La scoperta, spiega Kaiser, è il primo eccitante passo verso la comprensione della genetica, che controlla la morfologia umana del viso, e forse un giorno potremo ricostruire il volto di una persona esclusivamente sulla base del suo DNA, di una frazione del suo DNA, un'opportunità molto interessante per la scienza forense e per la scienza investigativa. D'altra parte, già riusciamo a predire con una certa accuratezza il colore degli occhi e dei capelli partendo da una piccola traccia di DNA. E ora rimaniamo sulla cronaca genetica perché vorrei segnalarvi che finalmente abbiamo ottenuto e codificato il DNA completo dell'ostrica. Pensate forse che questa sia una notizia futile, priva di importanza? Vi sbagliate, perché avere la carta d'identità di questo mollusco potrebbe addirittura darci informazioni preziose sui cambiamenti climatici del nostro pianeta. È così. Partiamo dal presupposto che il lavoro di ricerca non è mai inutile, ma in questo caso lo studio dei ricercatori dell'Accademia delle Scienze Cinese è stato addirittura pubblicato su Nature, proprio per la sua importanza. L'ostrica, originaria dell'Asia del Nord, ha colonizzato praticamente tutto il mondo ed è una delle specie più pregiate nel settore dell'acquacoltura. In natura questi molluschi bivalvi hanno un ruolo molto importante nella costruzione delle scogliere e anche, essendo molluschi filtratori, svolgono un ruolo ecologico fondamentale negli estuari e lungo le coste. Lo studio sopracitato ha sequenziato in particolare l'ostrica del Pacifico, Crassostrea gigas, e di queste ostriche, tanto per darvi un'idea, solo in Francia ne vengono coltivate circa 4 milioni di tonnellate l'anno. Il DNA ci ha rivelato che questo bivalve ha molti geni che conferiscono una capacità straordinaria di adattamento e una straordinaria capacità di far fronte agli stress ambientali, come ad esempio le variazioni di temperatura, di salinità, ma anche all'inquinamento, soprattutto quello da metallo pesante. È per questo che tutte le indicazioni che ci forniscono questi bivalvi sono preziose per lo studio dell'ambiente marino e dei relativi cambiamenti climatici. State attenti e attenti adesso perché vi dobbiamo spiegare una roba molto bella ma è un po' strana e ho qui davanti a me la persona che ci deve spiegare e divulgare questa stranezza, Avrilla Colla. Buonasera Colla. Buonasera. Docente del Politecnico di Milano, del Dipartimento di Design, credo, dove però insegna Design for All, cioè design per tutti. Allora, forse una prima cosa che bisogna dire per chi ancora avesse confusione su questo è che noi tendiamo, perché abbiamo una grande tradizione in Italia, a pensare che il design sia quello dell'arredamento. In realtà invece da sempre il design è progettare, no? La cultura del progetto che può arrivare anche ad aeroplani come anche a orecchini, insomma, no? È così. Dai sistemi, dagli hub al cucchiaino. Al cucchiaino, addirittura anche a procedure, no? Prassi operative. Procedure, sì. Quindi è un'accezione molto ampia. Di Design for All, Colla, ne abbiamo parlato proprio con lei qualche tempo fa, ma credo sia almeno un paio d'anni fa qui in radio. Sì. E per spiegare avevamo trovato un esempio molto carino, che ovviamente arriva da lei, che è quella delle panchine dei parchi. Sì. La domanda è: perché diavolo le panchine dei parchi devono essere tutte uguali? Perché? Perché nei parchi ci va gente diversa. Sì, non solo diversa, è diverso il momento della giornata, è diverso il mio desiderio, voglio mangiare, voglio dormire, voglio attaccare il bottone, voglio leggere. Sono una banda di ragazzi, sono signori con tanti giornali e poi papà, mamma con quattro bambini, quindi la panchina potrebbe essere uno strumento di gioco, come un'occasione amorosa, come un'occasione di conoscenza o di pace. Di pace. Nel senso di leggere, tranquillità, sincero, e riflessione. Quindi collocata anche in punti diversi del parco. Effettivamente questa, detta così, sembra assolutamente una banalità. E noi abbiamo delle panchine che sono tutte tremendamente uguali a se stesse. Anche l'uovo di Colombo è una banalità. Anche l'uovo di Colombo. Che non ci pensa nessuno. Diciamo che è banale, forse una volta che uno ne parla, capire che c'è questa necessità. Non è altrettanto banale essere in grado di rispondere in modo strutturato e progettato a questa necessità. Anzi, adesso entrandoci dentro vedremo che è una disciplina di ricerca che può dare grandi risultati, ma è complessa, è difficile. È complessa. Cioè, bisogna sudarci sopra, bisogna lavorarci. Mi pare che voi abbiate una specie di manifesto culturale in quattro punti che lo qualificano in generale. Vediamolo un attimo. Ci sono quattro punti che io uso come elementi divulgativi più che manifesto culturale, perché il Design for All cambia insieme alla società, sì. Quindi non si può... Non può avere la rigidità di esatto. un proclama. Va no, bene. Non può. Okay. Però ci sono quattro punti che lo fanno capire bene, secondo me. Proviamo. Il primo è, se non è bello, che è una provocazione, se non è bello non è design for all. Mm. Questo ha due nature. La prima è che gli studi di psicologia cognitiva ci raccontano il ruolo della bellezza nella nostra quotidianità e in particolare anche l'approccio, il migliore approccio è un approccio più creativo quando usiamo un qualche cosa con una qualità estetica eccellente al processo di prova e errore. Quindi alla fine il bello ci frustra meno. Il bello crea un'emozione positiva. Un'emozione positiva, certo. Esatto. Poi? Il secondo punto è, non è facile mantenere la vita semplice. Oh, questo come è importante. Come dicevamo, infatti. Esatto. E questo perché? Perché la diversità umana è molto complessa, è tantissima, ed è una ricchezza incredibile. Però rispondere e dare valore a tanta diversità è una sfida importante, certo. Che il progetto è perfettamente in grado di affrontare con ricerca e strutture. Non è facile da ottenere, ma quando la otteniamo il successo è grosso, è grosso, consistente. Il terzo elemento è, un buon progetto abilita, un cattivo progetto disabilita. Qui disabilita vuol dire anche diversità, no? Fisiche, sì. Tra di noi. È il o nessuno è disabile o siamo tutti disabili oppure siamo tutti diversi. Oh. La diversità è una diversità biologica, una diversità di momento della giornata, una diversità psicologica, una diversità culturale, una diversità emotiva di quel momento. Sono tutte cose che concorrono a cambiare come noi ci interfacciamo col mondo. Quotidianamente. Che sia ora. Una penna, un libro, un microfono o la strada, okay. O il traffico. Ci siamo. Tipo lunedì mattina che sono un po' rintronato magari alle 8 e quindi non vedo l'autobus. Si potrebbe progettare meglio anche questa cosa. Il lunedì mattina. Quindi il progetto deve riuscire ad abilitare queste diversità. Sì, il progetto ha il potere, se ben gestito, di tirare fuori il meglio da noi, da una parte, e adeguare alle nostre abilità, alle nostre necessità e alle nostre aspirazioni l'intorno che noi stessi costruiamo. Certo. Quindi fare una cosa che non va bene per noi e la facciamo noi magari non è sagace. Possiamo brevemente, lo faccio io magari se non le dispiace, il punto finale, cioè se tutti questi ingredienti funzionano, noi abbiamo certamente un grosso successo di mercato. Assolutamente. E qui voglio arrivare al motivo principale per cui lei è qui, perché state lanciando un concorso estremamente interessante che mette insieme una grande industria italiana, che è quella della moda, con un grande tema, che è quello della sostenibilità, e voi state proponendo, volete ricevere progetti che siano nella direzione della moda, con il criterio design for all, e quindi però aggiungendo anche questi temi della sostenibilità, cioè devono essere materiali sostenibili, sì. Biodegradabili, cose di questo genere. Assolutamente, allora il concetto è che il design for all è una delle tre gambe della sostenibilità, sì. Dello sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale. Quindi automaticamente ci occupiamo di tutti i temi, è un progetto integrato. Sì. La moda per tutti, quindi i vestiti, gli abiti, gli accessori, i vari complementi, raccontano di noi tutto, e quindi è forse uno degli specchi più interessanti e più difficili per interpretare la diversità umana. È una sfida, e tanti stilisti hanno preso a piene mani nella diversità culturale. Sì. E quindi mi sembrava ci sembrava il punto. Un punto di partenza buono per affrontare la cosa. Noi abbiamo creato, per esempio, alcune categorie guida. Per dare una mano a capire questo concetto interpretato nella moda, che ovviamente deve essere glam, perché se non è glam non è moda, no? Se non è bello non è design for all. Deve essere bello. Oh, attenzione che qui ci stiamo rivolgendo anche a gente che può partecipare a questo concorso, che esatto. Parte adesso, viene lanciato questa settimana e a giugno aspettate, no? Sì, la deadline è il 30 di giugno. Okay. Ma che cosa bisogna produrre? Anche qui facciamo, me ne ha fatto prima lei un esempio molto divertente. Un cinese e un cristiano, e una cristiana, anche un cristiano. Perché no? Che si sposano. È un europeo, sì. Normalmente la nostra prassi di matrimonio è un abito da cerimonia e un abito post cerimonia quando c'è il party. Okay. In una una tradizione cinese molto in uso, gli abiti sono 5. Che si fa? Che si fa se lui e lei hanno questo, si sposano e uno è europeo e l'altro è cinese. In un momento così rituale, così importante, così glamorous, così fotografato e così complesso culturalmente, l'abito multiculturale, infraculturale, interculturale, nei momenti dei riti. Che sia accettato da tutti e due. Sì. Questo. Che cambi magari, certo. Come l'abito che cambia taglia o come mi sta l'abito prima del cenone di Natale e come mi sta l'abito dopo. Quindi anche proprio provocazioni verso idee estremamente sottili, però ce n'è una che mi diceva prima abbastanza invece bella densa, e cioè un abito che posso indossare con un braccio solo perché magari l'altro ha dei grossi problemi artritici. Sì, può essere, ci sono molti motivi per cui durante la nostra vita un braccio non lo possiamo usare o magari non ce l'abbiamo. Che cosa succede quando ci fa male una spalla? Come riusciamo a indossare l'abito o a portare gli accessori usando una mano sola? Ci sono molte aree, degli abiti da lavoro, degli abiti degli astronauti, degli abiti dello striptease, che si possono, con un cross technology e un cross sector, si possono usare per creare un abito da tutti i giorni che sia più comodo, più funzionale, più comodo per tutti. Cioè introdurre anche lì una cosa che su molti oggetti si fa, no? Studiando l'ergonomia nell'uso di ergonomia olistica, quindi non solo il fisico, ma va bene. Allora senta, però siccome c'è un concorso, allora cosa bisogna fare? Bisogna che giovani ricercatori, ricercatrici, ma chiunque, anche aziende, partecipino a questo concorso mandando i progetti, ci dia un sito. Uno è avrildesign.com, avrildesign.com. E l'altro è fashionin.it. E il concorso è stato lanciato questa settimana. Il concorso si chiama Fashion In Design for All. Comunque sul sito trovate il link. È un progetto con il patrocinio di Design for All Italia, promosso dalla provincia di Milano. Bene, grazie Aprila Colla. Grazie a voi. Hola, abbiamo finito. La prossima settimana, attenzione, siamo a Trieste, trasmettiamo da lì perché c'è un appuntamento importante, Trieste Next, andate in rete e vedrete di che si tratta. Siamo proprio lì nella grande, bella, bellissima piazza Unità d'Italia. Dico agli ascoltatori e ascoltatrici dell'area triestina che se vogliono venirci a trovare, tendenzialmente saremo nel pomeriggio sia di sabato che domenica, però se andate al nostro sito www.moebiusonline.eu troverete le indicazioni più precise sugli orari. Buona settimana a tutti, arrivederci. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.